America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The Book of Mormon, uno degli spettacoli più entusiasmanti, più divertenti di Broadway, quello che ha avuto uno dei maggiori successi di pubblico. Ve ne ho parlato l'anno scorso perché ha vinto una gran quantità di Tony Awards. Alcuni giorni fa vi ho raccontato quali erano invece gli spettacoli nuovi che quest'anno hanno vinto i Tony Awards, e vi consiglio di andare a Broadway, soprattutto di vedere un musical, perché ci sono dei play, delle piste teatrali che sono interessantissime, che sono davvero molto molto belle, ma in effetti se non si parla molto bene l'inglese, beh, diciamo che è un po' più complicato. Invece nel musical, nel classico musical di Broadway, ma insomma le trame sono molto semplici e ci si gode così un'interpretazione artistica, sono dei cantanti meravigliosi, delle musiche meravigliose, l'orchestra live, ballerini strepitosi, proprio come, vi dicevo, proprio come The Book of Mormon. Instead of standing tall, I can't allow myself to have any doubt. It's time to set my worries free. Time to show the world. Allora, di questo The Book of Mormon se ne è parlato molto perché, perché l'anno scorso, insomma, ha dominato con la campagna elettorale e con Mitt Romney, che è mormone, che in qualche modo rischiava così di essere un po' preso in giro da questa versione teatrale di quella che è la religione dei mormoni, che è una religione molto particolare perché parla di rivelazioni divine, ma sono rivelazioni che avvengono alla fine dell'Ottocento. Ci sono tutta una serie di regole per questa religione che devono essere seguite alla lettera, non si può bere, non si può fumare, così via, così via. Dunque anche delle regole, devo dire, alquanto salubri, soprattutto di buonsenso. Bene, la trama più o meno del Book of Mormon è molto semplice. I mormoni hanno una tradizione: i giovani devono andare a fare i missionari, e lo fanno quando sono veramente molto giovani, 19, 20, 21 anni. E dunque questo spettacolo a Broadway racconta di un gruppo di giovani missionari che devono partire per andare a convertire alla loro religione gli abitanti dei paesi più diversi nel mondo, perché vanno davvero un po' da tutte le parti del mondo, questa è una realtà. Allora ci sono questi due che finiscono appaiati, sono tra l'altro un po' una strana coppia, uno molto bello, alto, ai tante, l'altro invece piccoletto, grassoccio, un po' bizzarro come tipo. Dove li mandano? Li mandano in Uganda. Ecco, tutta la storia si sviluppa attorno alla missione di questi due giovani americani che finiscono in Uganda e che finiscono poi nelle mani di alcuni terroristi. È spassosissimo, musiche bellissime. Quanto incassa mediamente The Book of Mormon? Ma è arrivata a incassare anche 2 milioni di dollari in una settimana, 2 milioni di dollari in una settimana, quindi è un settore che dal punto di vista economico tira straordinariamente bene, perché ci sono altri grandi shows, ve li dico questi perché al di là di quelli che hanno vinto i Tony Award ci sono dei classici. The Lion King, per esempio, continua a imperversare, 1,86-1,90 milioni di dollari in cassa alla settimana. Wicked, 1,77 milioni di dollari alla settimana. Dei nuovi spettacoli, Kinky Boots, di cui ho parlato, ha fatto l'Unplan con i Tony, 1,41 milioni di dollari alla settimana. Motown, molto divertente, l'ho visto, ve lo consiglio, vecchie musiche, 1,39 milioni di dollari alla settimana. Lucky Guy, 1,36. Matilda, 1,1. Stiamo parlando di incassi di circa 10 milioni di dollari alla settimana per 6-7 spettacoli a Broadway. Ce ne sono 46-50 gli spettacoli quest'anno nuovi, sono stati appunto 46, di cui 15 musical, 26 opere teatrali e 5 eventi speciali. Insomma, Broadway, questo straordinario quartiere, è un locomotore per l'economia della città. E dunque agli ultimi Tony Award il sindaco Michael Bloomberg è stato premiato e ha fatto un piccolo discorso. Sigourney, thank you. It's not bad for someone who can't sing, can't dance and can't act. Actually, I'm a triple threat, literally. Ecco, Bloomberg dice: New York non sarebbe New York senza Broadway. Ogni anno milioni di turisti scelgono di visitare la Grande Mela in gran parte per l'emozione di vedere uno spettacolo a Broadway. La comunità teatrale non solo dà lavoro a migliaia di persone, ma aiuta a riempire alberghi, ristoranti. La mia amministrazione ha lavorato diligentemente per rendere New York un posto sicuro per chi la visita ed è quindi con grande orgoglio che accetto questo Tony Award. Beh, quanti sono nella stagione in corso gli americani, turisti, stranieri, che vanno a Broadway? Beh, nella stagione in corso stiamo parlando di 11,57 milioni di persone. Il numero è leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno scorso, che aveva totalizzato 12,33 milioni di visitatori, ma il problema per la stagione di quest'anno, la stagione 2012-2013, è stato Sandy. Insomma, Sandy ha bloccato tutto, insomma, ha creato veramente un danno economico straordinario. Il fatturato complessivo del settore di Broadway, tutti i teatri, musical, piste teatrali, nella stagione 2012-2013 è stimato in 1,4 miliardi di dollari. Vi ripeto, in calo dell'1% rispetto alla scorsa stagione per Sunday. Si calcola che Sunday sia costato a Broadway 8,5 milioni di dollari in mancati guadagno. I am a newspaper reporter and I love my job. And I'm doing God's work. I'm serving the public. Ecco, però, se proprio dovete andare, volete andare, e ve lo consiglio, a vedere una pista teatrale, dunque non necessariamente un musical, andate a vedere Lucky Guy. Ha tutti gli ingredienti per essere uno di questi spettacoli molto importanti per la città di New York. Intanto è stato scritto da Nora Ephron. Nora Ephron è una donna straordinaria, veramente una delle più grandi autrici, sceneggiatrici americane. Ha fatto film di successo, ha scritto delle commedie romantiche fra le più belle, You've Got Mail, C'è posta per te, oppure Harry Met Sally, e potrei citarvene altri 20, insomma. Ecco, a un certo punto ha scritto quest'opera teatrale, purtroppo è mancata appena pochi mesi fa, prima che quest'opera potesse aprire, ed è la storia di un giornalista, e c'è un grande debutto. C'è il debutto di Tom Hanks a Broadway. E si dice che un attore non è mai completo se non fa un'apparizione davanti al pubblico a teatro. Ebbene, che è successo? Che alla fine Hanks, che pure era bravissimo, non ha avuto un premio per miglior attore e il play stesso di Nora Ephron non ha avuto dei riconoscimenti. C'è stato un premio per il miglior attore non protagonista e comunque porta un danno il fatto di non vincere premi? Beh, fino a un certo punto, perché come vedete vi sto consigliando di andarlo a vedere, le attrazioni ci sono, vedere Tom Hanks dal vivo, io sono andato a vederlo, è un grande privilegio, molto molto divertente, e difatti anche Lucky Guy incassa 1,36 milioni di dollari alla settimana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Chiudiamo questa classifica delle 10 migliori canzoni uscite finora nel 2013 selezionate da NPR, Public Radio Americana. Vi propongo oggi questo brano di Phosphorescent, Song for Zula. Just as fickle as a feather in the stream. See, honey, I saw love. You see, it came to me. It put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love disfigure me into something I am not recognizing. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!